Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. 2300 anni fa il problema era come dare fuoco alle navi nemiche prima che sbarcassero le truppe sulle coste di Siracusa. Oggi la sfida è produrre energia elettrica in modo pulito ed economicamente sostenibile, ma la soluzione non è molto diversa. Nuvole permettendo, si tratta di concentrare la luce solare grazie a specchi curvi allo scopo di produrre temperature elevate. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt, io sono Maurizio Melis e questa sera parleremo del progetto Enel / Enea Archimede, del primo prototipo di centrale solare termodinamica a sali fusi del mondo, che sta, per così dire, caricando le batterie in questi giorni in attesa di produrre i primi watt elettrici entro questa estate. Ne parliamo con l'ingegnere Mauro Vignolini dell'Enea, capo progetto di Archimede. Buonasera Vignolini. Buonasera. Allora Vignolini, esistono almeno, diciamo, tre architetture diverse per concentrare il sole e ottenere calore ad alta temperatura con cui poi generare elettricità. Archimede fa parte della cosiddetta famiglia parabolica lineare. Ci spiega in cosa consiste? Sono degli ampi specchi di apertura di circa 6 metri per una lunghezza di 100 metri che inseguono il sole durante la giornata e concentrano circa 80 volte i raggi del sole su un tubo che scorre lungo il fuoco della parabola. All'interno di questo tubo c'è un fluido che viene riscaldato fino alle temperature 550 gradi. Questa temperatura è adatta per produrre vapore e quindi energia elettrica attraverso una turbina. D'accordo. Ecco, la peculiarità di Archimede sta proprio nella scelta di questo fluido che scorre all'interno di quello che è un tubo di vetro praticamente trattato, molto specializzato, ma appunto la scelta del fluido vettore, dicevamo, perché al posto dei cosiddetti oli diatermici voi usate una miscela di sali. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono essenzialmente: possiamo raggiungere delle temperature molto più elevate rispetto all'olio, che raggiunge i 380 gradi. Noi con il nostro fluido possiamo raggiungere i 550 gradi. Questo significa che sono temperature del tutto identiche a quelle che vengono raggiunte con gli impianti a combustibili fossili, carbone, olio, gas, e quindi tutta la parte convenzionale dell'impianto di produzione di energia elettrica può essere utilizzata, quella attuale, senza modifiche. Il vantaggio grosso è che il rendimento di un impianto al salire della temperatura aumenta, certo. E l'altro aspetto è l'accumulo termico, che è uno dei punti di forza di questo progetto. Ecco, ci spieghi meglio allora, accumulo termico, cioè? Significa che noi abbiamo dei grandi serbatoi, per esempio Archimede ha dei serbatoi di 17 metri di diametro per 7 di altezza, in cui c'è questo fluido a 550 gradi che permette di fornire e produrre energia elettrica in modo costante durante la giornata, ed è un vantaggio grosso perché le rinnovabili hanno un po' delle alternanze in funzione del vento o del sole, mentre con questa tecnologia si riesce a produrre ed immettere in rete energia elettrica in modo costante. Cioè diventa programmabile questa fonte di energia, a differenza delle altre che non lo sono. Senta, attualmente quali sono i costi e invece quali sono i costi a cui si punta, e poi dove li mettiamo questi grandi impianti? Perché uno dei problemi, diciamo, che ci sono rispetto a questa tecnologia sono le grandi superfici di cui c'è bisogno. Sì, i costi attualmente sono decisamente superiori a quelli della produzione di energia elettrica con le fonti convenzionali. Parliamo di 30 centesimi di euro a kilowattora prodotto. Mentre contro 6, giusto? Un impianto a carbone, che è il più economico, è intorno a 6 centesimi di euro a kilowattora. Quindi la nostra sfida, il nostro obiettivo è quello di ridurre questi costi a dei valori compatibili con quelli dei combustibili fossili. Noi riteniamo che nel 2025 sia possibile raggiungere questo obiettivo. Quindi 6 centesimi a kilowattora. Diciamo intorno ai 10 fra nel 2025, ma è anche vero che nel 2025 probabilmente il carbone non costerà più 6 centesimi di euro o qualcosa in più. L'altro aspetto che lei diceva per quanto riguarda grandi superfici, c'è un progetto Desertec che la Germania sta portando avanti e ultimamente è entrata anche l'Enel in questo progetto, che prevede di costruire questi grandi impianti in Nord Africa e trasportare l'energia prodotta in Europa. Questo ci permette innanzitutto di avere un maggiore irraggiamento solare e quindi ridurre in costi di un 30% solo per questo aspetto, a parità di impianto. Certo. Quindi è molto vantaggioso andare a produrre lì e trasportare questa energia, e questo è l'obiettivo che si è data, si sta dando l'Europa. Ecco, mi pare che l'Enea e lei in particolare Vignolini abbiate perseguito un'idea di politica industriale con il progetto Archimede, più che di politica strettamente energetica per quanto riguarda l'Italia. E certamente, perché noi prevediamo di vendere questi componenti all'estero. Un esempio posso fare: la Germania, che ha investito prima di noi in questo campo, ora ha la più grande industria della componentistica nel solare termodinamico, anche se nel territorio in Germania non possono essere sicuramente costruiti, certo, impianti di questo tipo, perché non sono adatti. Questi impianti sono adatti nel sud dell'Europa, o meglio ancora nel nord Africa. Dell'Africa. È uno di quegli esempi di politica industriale di cui molto si parla, ma spesso insomma si fa pochino. Senta, questo impianto è atteso da molti anni. Come mai questo ritardo, e questa volta partite davvero? Certamente, perché a giugno di quest'anno inizierà a funzionare questo impianto. Non è stato possibile farlo prima perché non c'erano gli incentivi. Attualmente ci sono, è partito nel 2008 e dopo due anni l'impianto è pronto. Va bene, in bocca al lupo Vignolini. La ringrazio. Questo è tutto, l'appuntamento è per domani. Parleremo di geotermico a media entalpia. Buona serata.